Sì. Ascolta il testo. Salutare. Augurare buongiorno e buonasera alle persone che incontriamo è un semplicissimo gesto di buona educazione. Lo impariamo fin da piccoli, osservando come si comportano gli adulti. Poi, quando noi siamo grandi, non ne possiamo fare a meno. Usiamo ciao con gli amici e con le persone che conosciamo bene. Oppure buongiorno, buonasera, salve, con conoscenti e persone con cui non abbiamo molta confidenza. I giovani qualche volta usano espressioni insolite, strane, parole che in gergo sono un modo di salutare e di dimostrarsi interessati alla presenza degli altri. Sorridere e dire buongiorno al signore seduto vicino a noi in autobus è un'azione spontanea. Lo facciamo senza pensarci, senza realmente deciderlo. Inconsapevolmente quel piccolo gesto significa «mi sono accorto, accorta, della tua presenza» e per alcuni significa addirittura «mi importa di te». È un esempio di buone maniere su cui riflettiamo solo quando ci troviamo di fronte ad una situazione opposta. Infatti, se salutare e rispondere a un saluto è un gesto ovvio, non salutare, non mostrare considerazione per gli altri è un chiaro messaggio di ostilità. Questo stupisce e imbarazza, perché è un comportamento imprevisto e significa «ti vedo, ma ho deciso di ignorarti».